L'amore non esiste, è un cliché di situazioni tra due che non son buoni ad annusarsi come bestie, finché il muro di parole che hanno eretto resterà ancora fra loro a rovinare tutto. L'amore non esiste, è l'effetto prorompente di dottrine moraliste sulle voglie della gente, è il più comodo rimedio alla paura di non essere capaci a rimanere soli. L'amore non ha casa, non ha un'orbita terrestre, non risponde ai più banali meccanismi tra le forze, è un assetto societario in conflitto di interesse. L'amore non esiste, ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento, l'illusione di competere col tempo. Io non ho la religiosa accettazione della fine, potessimo trovare altri sinonimi del bene. L'amore non esiste, esistiamo io e te. L'amore se può esiste, è questa idea d'attaccamento che all'uomo del mio tempo, per le tante storie viste, non esiste fare i conti, accontentarsi piano piano di una vita mano nella mano. L'amore non esiste, è un ingorgo della mente di domande mal riposte e di risposte non convinte. Vuoi tu prendere per sposo questa libera creatura finché Dio l'avrà deciso o solamente finché dura? Ma esistiamo io e te, e la nostra ribellione alla statistica, un abbraccio per proteggerci dal vento,